Sono venuto qua perché dalle altre parti dove ero il lavoro non si adattava alle mie caratteristiche di seduto, e allora ho dovuto venire qua, cercare di fare qualcosa nel limite del possibile. Ho fatto termosaldatura da un'altra parte, c'era una struttura e lì avevamo le macchine per poter lavorare la plastica. Dopo mi sono dovuto limitare perché il lavoro che facevo era un po' pericoloso, perché si lavorava con le macchine e le macchine a volte erano un po' pericolose, allora ho dovuto rinunciare. Qui faccio, rileghiamo i giornali assieme ai colleghi, io tiro via le graffette, altri li cuciono e altri li incollano a seconda dell'esigenza della biblioteca e del cliente. Non si tratta di divertimento, bisogna impegnarsi in qualcosa. Se ci riesco, che non mi dà delle difficoltà, mi appassiona. È tutta una questione di recupero. C'è un passaggio di consegne. E come ti trovi in questo ambiente? Ti piace? Vieni qui ogni giorno? Sì, nonostante le mie difficoltà fisiche vengo qui ogni giorno, perché a me interessa stare in mezzo alla gente. E se no, al di fuori della club, com'è la tua vita? Beh, mi arrangio.